Nicolò. 20 luglio. Quell'arnese nero e il cassettone nero si è adesso trasformato in uomo vecchio. Egli indossa il costume del secolo scorso. Io, ce ne è voluto del tempo prima che tu sia riuscito a farti vedere in modo giusto. Lui, tu ne sei responsabile. Io, sì, è vero, lo sento anch'io. Non ne posso più. Lui, liberati. Io, ma io devo pur avere anche amore verso il mio prossimo, per gli altri, e non posso vivere esclusivamente per voi. Lui, devi pregare di più. Se ne andò per ritornare 2 ore dopo. Io avevo dormito, sono così, sono stanca a morire. Non ne posso più. In tutto il giorno non avevo avuto un momento libero per me stessa. Io, vieni, adesso voglio pregare con te. Mi sembrò contento. Mi si avvicinò. È un uomo anziano con farsetto bruno e una catenina d'oro. Io, chi sei? Lui, Nicolò. Io, perché non hai pace? Lui, io fui un oppressore dei poveri. Ed essi mi hanno maledetto. Io, sei vissuto qui? Lui, no. Io, dove? Lui, a Mainz. Io, sei un mio parente? Lui, no. Io, e in che modo ti posso aiutare? Lui, col sacrificio. Io, che cosa intendi dire per sacrificio? Lui, offrirmi tutto quello che più ti pesa. Io, la preghiera non ti giova più. Lui, sì, se ti costa. Io, ci deve essere sempre assieme la offerta della mia volontà? Lui, sì. Si fermò ancora parecchio. Nota. Una verità della vita religiosa, la preghiera deve essere unita al sacrificio. Ecco quindi un avvertimento. Non pregare egoisticamente. Soddisfazione nella preghiera, cioè il sentimento divino, può portare su una strada sbagliata e cullare uno in una falsa sicurezza. La croce di Cristo e la sapienza dell'orante. 22 luglio. Mi recai a Rottweil, appena giuntavi egli era lì. Io, come fai a trovarmi subito? Lui. Ma io non ti lascio mai. Io, e perché non ti vedo sempre? Lui, perché tu sei divisa. Io, questo me lo hanno già detto altre anime. Dimmi di più. Lui, tu sei liberata, ma non del tutto. Io, perché non vai da quelli che sono del tutto liberi? Lui, non lo trovo. 23 luglio. Una notte tremenda. Vidi in camera mia tante figure, come non mai. Esse si stringono attorno a me e sospirano. A differenza delle altre apparizioni, queste erano senza corpo. Era una cosa così tormentosa che fui presa da un immenso timore e un'angoscia tremenda e mi misi a piangere. Esse continuarono a volare attorno a me quasi per 3 ore. Di buona mattina venne Nicolò. Io, sai che cosa era che mi girava attorno? Lui, no, tu mi hai dimenticato. Io, no, ma devo pur dare anche agli altri. Voi non potete tormentarmi in questo modo. Lui, noi seguiamo una volontà superiore. 2 giorni di continua calma. Come mi fece bene. 26 luglio. 4 figure e poi Nicolò. Io, come mai in tanto tempo non hai trovato nessuno che ti aiuti? Nicolò, io ero ancora nelle tenebre. Io, e come hai fatto a venire diretto da me? Lui, ci viene indicata la strada. Io, ma sarà ben diverso per te essere aiutato con il santo sacrificio della messa. Nella quale si fa sempre memoria di voi. Niccolò, i castighi sono diversi, Non tutti hanno parte, Dio è giusto. 28 luglio. Sono stata tormentata in maniera quasi insopportabile da tante figure che ti stavano attorno. Da qualunque parte fossi andata esse mi seguivano, credetti di essere matta e per di più non potevo lasciar trapelare niente. Ed ecco che nella mia quasi mezza disperazione l'altro mi tirò a sé, io mi trovavo in una pace dello spirito e non vidi e non udii più nulla. Ma io non voglio comunque parlarne. 29 luglio. Nicolò mi poggiò la sua mano sul capo e mi guardò con tanta simpatia, che dissi, hai una faccia così contenta, puoi andare dal buon Dio? Nicolò, la tua sofferenza mi ha liberato. Io, hai notato tutto ciò che mi capitò in questi giorni? Però io pensai che tutto questo non ti avrebbe giovato, perché io non lo ho sopportato con gioia. Nicolò, la tua volontà era spezzata. Io, non tornerai più. Lui, no. Io, dove sei sepolto? Lui, a Neckar. Io, ma se sei vissuto a Mainz? Lui, sono caduto in guerra. Egli ritornò di nuovo vicino e mise la mano sul mio capo. Non fu una cosa da far paura, oppure forse io sono ormai insensibile. 4 agosto. Niente di nuovo. Ci sono qui le figure, ma non mi tormentano. Mi sovvengo di qualche cosa. Adesso ci vuole sempre più tempo prima che le apparizioni siano calmate. Non posso spiegarmi la cosa se non che io sono diventata più povera nel bene.